Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti al nuovo appuntamento del Pioniere, questa rubrica del sabato mattina che va a guardare diversi aspetti legati a questa rivista di fumetti che dagli anni 50 fino al 74 ha percorso le strade della sinistra italiana, in particolare degli ambienti legati al Partito Comunista Italiano. Oggi entriamo proprio nel segno, nella grafica, e lo facciamo con Sergio Rossi, che è un esperto di fumetti, tra l'altro gloria bolognese perché lavora alla Sala Borsa, ma comunque stato a diretto dal 98 al 2005 la rivista Fumo di China, la Black Velvet editrice dal 2010 al 2013. Ha tradotto e curato diversi libri legati a personaggi come Corto Maltese, Milo Mannaro, Crepax, Diaboliche ed altro, insomma, anche scrittore peraltro, e soprattutto grande amante di Rodari. E proprio da questo punto di vista rodariano poi avanza anche delle critiche a una storia del Pioniere che vanno a arricchire il nostro mosaico di riflessioni di questo importante accadimento culturale della sinistra italiana. Le musiche di questa nostra trasmissione sono del grande Carl Starling, questo musicista per cartoon da cinema, cartoni animati, inizialmente con Walt Disney, poi ha litigato col grande Walt per dirigersi verso la Warner Bros. Diciamo che le sue composizioni rimangono un pezzo di grande capitale musicale, il rapporto all'immagine è tuttora ancora uno dei grandi maestri per chi faccia musica da film animato. Ma torniamo dunque al Pioniere, dando la parola a Sergio Rossi, critico nonché disegnatore di fumetti. Quando è uscito il Pioniere e lo dirigeva Rodari, e Gianni Rodari, e scriveva le storie di Cipollina e degli altri, i suoi primi nemici non erano tanto i preti del cardinale Lercaro o di altri, ma erano all'interno, erano stati proprio Nilde Iotti e in parte Palmiro Togliatti nel PC. Perché? Perché Rodari e con Argigli e gli altri, Raul Verdini e gli altri che collaboravano, si rendevano conto che a questa generazione di ragazzi che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, che stava vivendo in un'Italia che finalmente entrava nel XX secolo dopo il ventennio fascista che l'aveva congelata molto indietro, e c'era da parlare un nuovo linguaggio, nuove storie, di un mondo molto più complesso di quello che passava la letteratura per ragazzi, il fumetto per ragazzi dell'epoca. E questo voleva dire storie molto più complesse, molto, anche se fondate su valori importanti, la democrazia, la resistenza, quant'altro, però che parlassero il linguaggio dei giovani e parlassero del mondo in cui vivevano. La prima che viene, Nilde Iotti, ci fu subito una polemica ferocissima all'epoca tra Rodari e Nilde Iotti, prima di tutto perché parlavano di fumetti. Allora, il fumetto in Italia è sempre stato visto fin dall'inizio del Corriere dei Piccoli come qualcosa di estraneo alla cultura, al linguaggio, a qualcosa. Quando arriva il Corriere dei Piccoli, faccio un piccolo inciso, nel 1908, dicembre, 27 dicembre 1908, cosa fanno? Al Corriere della Sera vedono che c'è un successo enorme dei fumetti in America e in Inghilterra, li portano in Italia, non si rendono conto benissimo. Il pedagogista Silvio Spaventa Filippi prende questi fumetti, vede che sono fumetti fatti per adulti, da adulti per adulti, e li bambinizza con i famosi rime, le rime baciate, leva le nuvolette, tutto quanto, e prende dei fumetti dove ci sono dei monelli cattivissimi e li rende tutti buoni, tutti. E quindi fa un fumetto che sia pesantemente educativo, che era tutto l'opposto di quanto era accaduto qualche anno prima con Vampa, quando faceva il giornalino della domenica e c'era Gian Burrasca, che invece era un giornale pesantemente critico anche per ragazzi. Infatti Vampa era come si dice adesso, attenzionato dalla polizia dell'epoca perché è sovversivo. Quindi il fumetto in Italia è sempre stato vissuto come qualcosa di estraneo alla cultura e soprattutto che moralmente inaccettabile. Anche dal fascismo, che quando vede che Topolino si schiera dalla parte dei buoni, che erano degli americani contro i nazisti, e tutti gli eroi americani dei fumetti che venivano tradotti negli anni 30, che diventano immediatamente dei paladini della libertà quando si scontrano con nella seconda guerra mondiale con giapponesi e tedeschi, vengono tutti immediatamente cancellati dal regime, censurati. Perché? Perché questi fumetti hanno un successo enorme tra i ragazzi. E anche se erano fumetti americani, c'era l'esaltazione del mito americano, però c'era anche l'esaltazione di ideali di libertà, di giustizia e di quant'altro, cosa che il fascismo non poteva assolutamente tollerare da questo punto di vista. Quando arriva il dopoguerra e il Partito Comunista comincia a educare le masse, come perché c'è bisogno, in Italia c'è il 70% di analfabeti in quel momento, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che succede? Vuole fare un'educazione, fare delle storie per ragazzi che educhino. Il problema di tutte le storie educative, sia di destra, di sinistra, di centro, di quant'altro, lo dico da autore anche di storie per ragazzi, è che sono storie 9 su 10 sono noiosissime, perché non hanno in sé i conflitti, i personaggi sono monodimensionali, monotematici, e i ragazzi tendono a non leggerle. Quindi, quando appunto ci va Rodari a dirigere il Pioniere, che invece era di tutt'altra pasta, di tutt'altra specie, ha subito dei grossi problemi, tant'è vero che c'è un grosso carteggio tra Rodari e la dirigenza del Partito Comunista, dove lui difende sia il fumetto, ma non tanto il fumetto, perché non era un grosso appassionato di fumetto, lo dico da rodariano, che me ne dispiace. Però difende il fatto che bisogna parlare ai ragazzi dell'epoca in cui vivono col linguaggio dell'epoca, senza tante censure, senza preoccuparsi del fatto che non capiscono, perché dice i ragazzi capiscono benissimo, anzi bisogna dare gli strumenti per capire. Non lo capisce la dirigenza del Partito Comunista, ma questo non lo capirà. Quando si arriva al 68, prima del 68 in Italia arriva la rivista Linus, che è una rivista per adulti dove propone fumetti per adulti. Esordiranno Guido Crepax, Altan, Pericoli Pirella, tutti gli autori più grandi poi che ha avuto la satira e il fumetto tra gli anni 60 e gli anni 70. E anche lì non viene capita questo tentativo di uscita, questa idea di parlare di cose dell'epoca attraverso un linguaggio per l'Italia nuovo, perché non c'è l'ironia, c'è lo spiazzamento, c'è il ribaltamento, diciamo, del ruolo, c'è un senso critico molto diverso, e questo non andava bene. Infatti nel mondo del fumetto, se voi cercate, a parte questo libro molto bello, Falce Fumetto, edito da Nerbini, questi saggi sul fumetto proprio di sinistra del PC, in nessuna storia del fumetto viene mai citato, se non diciamo per questioni storiche, il Pioniere o anche quello che l'aveva preceduto, Noi Ragazzi, proprio perché le storie che venivano pubblicate non hanno retto, spiace dirlo, all'impatto del tempo, probabilmente neanche del tempo in cui vivevano. Sono storie che, rilette adesso, io ho ritrovato questo almanacco del Pioniere con storie partigiane, di racconti, sono diventate molto pesanti, molto illeggibili. Illeggibili nel senso che sono fatte storie da adulti che pensano di educare i ragazzi con delle storie con il linguaggio degli adulti. È vero che all'epoca, negli anni 50, ma anche negli anni 70, quando sono cresciuto io, si parlava ai ragazzi con un altro linguaggio che adesso è molto cambiato. Però erano storie belle, erano storie edificanti, piene di buoni, però poco storie, se mi passate. Cioè la parte narrativa, che è quella che fa sì che ha presa sul lettore, e questo Rodari lo sapeva benissimo, funzionava molto poco. Per questo queste storie sono state presto dimenticate, in quanto storie sono diventate importanti da un punto di vista, se volete, più storiografico e sociologico, per capire come funzionava l'aria dei tempi. E lo si vede bene sul settimanale che precede il Pioniere, che è Noi Ragazzi, che traduce in Italia, e poi lo riprende anche il Pioniere, molti fumetti invece del giornale, che era Vaillant, un giornale francese, fatto per i giovani comunisti francesi, che è un giornale che in Francia vende centinaia di migliaia di copie. Perché? Perché è fatto da autori di fumetti che sanno che cos'è il fumetto, sanno cosa gli piace ai ragazzi e fanno delle storie molto belle e molto divertenti. Sul Pioniere, se vedete questo cane vestito da Befana, è Pif Le Chien, Pif il cane, che è il protagonista principale di Vaillant, che è il personaggio che per 20 anni, 30 anni ha accompagnato generazioni di lettori francesi su questa rivista. C'erano storie tipo I Pionieri della Terra di Roger Le Courreau, che durerà per 30 anni su questo fumetto. Poi Vaillant si chiamerà Pif, dal nome del cane, e vi esordirà Ugo Pratt con Corto Maltese negli anni 70, questo per dire la portata di questo fumetto, di questo giornale. Però era fatto da autori che in Francia sapevano che cos'era il fumetto e che bisognava sì educare, però bisognava anche veicolarlo in una storia che avesse la sua importanza, un po' quello che Lucrezio, l'autore latino, quando scrive Terra e Natura, scrive nel premio: sì, è vero, io vi devo spiegare come funziona l'universo, gli atomi e tutto quanto, però se non ve lo metto in una forma bella, esteticamente bella, non funziona. È come dare una medicina senza spargere di miele i bordi del bicchiere, perché voi avete una medicina amara, ma io vi devo far bere in qualche modo. Mancava proprio questa idea della storia, ma è un'idea che manca proprio di visione per quanto riguarda, purtroppo viene da dire, da sinistra verso di critica, verso i dirigenti della sinistra dell'epoca, di capire che c'era una gioventù che si muoveva, che aveva uno sguardo sull'epoca che non era quello dei loro padri, che aveva bisogno di un linguaggio, di parole diverse da quello dei loro padri, e loro invece li indottrinavano con le loro parole, con le loro storie, ma non erano in realtà neanche storie, erano molte volte un indottrinamento. Poche volte queste storie sono diventate, come nel caso di Cipollino, di Rodari, che hanno retto anche il tempo, molte altre sono cadute nel dimenticatoio, e questo si protrae sia per i ragazzi sia per gli adulti, e questo lo si vede non solo negli anni 50, si vede nel 68 quando arriva Linus, la rivista Linus registra quello che accade nel 68, ma non lo registra subito, per dire, gli altri organi, diciamo, di stampa, e soprattutto nel 77, quando c'è proprio il fumetto diventa un'arma nelle mani di quella generazione, la satira, che i loro padri non capiscono, e diventa un'arma per metterli alla berlina. Se voi prendete il male, per dire, la rivista Il Male, i primi nemici del male erano gli stessi di sinistra, le file da cui loro provenivano, questi autori, perché mettevano alla berlina non solo quelli di destra, ovviamente, ma anche i loro stessi compagni di strada, fratelli maggiori. E questo è stato un po', diciamo, un peccato mortale che si è portato un po' dietro tutta la cultura italiana, di sottostimare la portata di questo linguaggio e di non produrre opere che fossero prima di tutto delle opere, come faceva Gianni Rodari. Cioè, se noi leggiamo ancora oggi i libri di Rodari, perché prima di tutto sono dei bei libri, delle belle poesie, delle belle filastrocche. Poi sono filastrocche dove c'è un'etica, una morale molto forte, molto precisa, però veicolata con un linguaggio che va bene sia per i ragazzi degli anni 50 sia per quelli degli anni 2000. Il critico di fumetti Sergio Rossi allora ci ha parlato di un'evoluzione generazionale dei fumetti che hanno cambiato anche segno in tutti i sensi, anche perché da quelle certezze del sol dell'avvenire, del giusto, del male, invece si è passati al dubbio, si è scoperto che i propri eroi sono fragili. Un'evoluzione tipica degli anni 60, che ha avuto uno spaccato sicuramente con l'arrivo dei Peanuts di Schultz e la rivista Linus. 1 aprile 1965. Nasce a Milano la rivista Linus. È una rivoluzione nel mondo del fumetto. Le cosiddette nuvole parlanti assumono un linguaggio più maturo e moderno. Sia le sceneggiature che i disegni si fanno più smaliziati e consacrano la metamorfosi del fumetto da pubblicazione per l'infanzia a vera e propria letteratura per adulti. Già nel nome della testata, Linus richiama Linus Van Pelt, cioè uno dei protagonisti dei cartoons di Peanuts. E lì c'era un fattore di rinnovamento, c'era un fattore davvero di novità già in questo rispetto alla cultura italiana dell'epoca. Linus, con in particolare con la direzione di Oreste Del Buono, ODB in sigla per tutti quelli che hanno amato frequentare quelle pagine, ha introdotto nel dibattito culturale italiano e nelle nostre librerie, nelle nostre biblioteche, perché poi c'era anche nelle biblioteche pubbliche, ha introdotto nel nostro menu, ha introdotto questo fattore tipico della cultura americana, più tipico della cultura americana, e quindi oltre appunto ai Peanuts c'è stato Beetle Bailey, c'era Bristow, ma c'era anche Copy, e poi naturalmente sono stati portati sulle pagine anche autori importanti italiani come Pazienza e come Altan. Potrà anche apparire curioso oggi, ma le strisce dell'allora Schultz, dei suoi Peanuts, furono davvero uno spaccato generazionale, delinearono un nuovo mondo dei fumetti che cercavano in qualche modo anche un nuovo target e una comunicazione meno esplicita, più problematica, sicuramente priva di ferree certezze. Pensiamo ad allora a Ugo Pratt e il suo Corto Maltese, questo marinaio senza arte né parte, figlio di una maga, frequentatori anche di locali malfamati. Certo, Corto Maltese ha dei precedenti letterari ben riconoscibili in Jack London o in Melville, e anche di nipotini altrettanto letterari come Gavrolli il Gabbiere. È vestito come Bar Lancaster in Trono Nero, ma sintetizza in sé tutta una voglia di conoscenza, andare oltre i propri confini, i propri steccati, e il bello di navigare nelle incertezze. Seppur tra mille scetticismi, alla fine sempre dalla parte giusta. Lo stesso Ugo Pratt in questa intervista ricorda come il suo Corto Maltese non è affatto un uomo che ogni volta che parla scolpisce una lapide. Quando sono così solo con lui, che devo cominciare a pensare a una storia, a regalargli una trama, qualche cosa per vedere se lui è d'accordo, la prima cosa che io disegno generalmente di Corto Maltese, che mi nasce dal disegno, dal foglio in bianco, sono gli occhi. La prima cosa che mi succede è quella di misurarmi con il suo sguardo. La battuta più divertente di una storia cinese, credo, in Corte Sconta, detta di Tarkana. Lui si fa un bagno, perché è un eroe pulito, spesso si doccia, spesso fa i bagni. E in quel momento l'ho messo là così, in questo disegno, che guarda verso il lettore e dice: ai ai Corto, stai per dire una coglionata. Ecco, quella mi sembra che la battuta che l'ha dimensionato come uomo, che permette così all'autore e al lettore di ripensare un momento, no? Ma cosa verrà dopo? Perché ha detto quella battuta? Quello mi ha sempre aiutato molto. Tra i tanti eroi di carta senza patria, ecco che troviamo Dylan Dog. Quando l'incertezza si fa mistero e tutto diventa impalpabile. Dylan Dog ha segnato un'intera generazione, come ci raccontano Roberto Recchione e Michele Magiro, produttori di questo famoso fumetto di Tiziano Sclavi. Se Tiziano faceva comportare in maniera incoerente Dylan in una storia perché gli andava, trasformava quell'incoerenza in un tratto caratteriale realistico di un essere umano che non è mai coerente. Dylan Dog non è stato solo un fumetto di successo che derivava dalla sua qualità, ma è stato un fenomeno editoriale. E il fenomeno editoriale non dipende solo dalla sua qualità. Il successo deriva dalla qualità, il fenomeno deriva dall'aver intercettato il tempo. Sui primi anni 90 era più facile trovare un ragazzo con una copia di Dylan Dog in mano che uno senza. Era un prodotto che faceva generazione, un'opera che faceva generazione. Siamo arrivati ad avere Dylan Dog sul palco del Primo Maggio in gigantografia, era totalmente riconosciuto e identificato in quel periodo. Esplode in una maniera che va al di là di tutto quello che potevano pensare, tante insociabilità. Voi siete della generazione in cui la cultura nerd è diventata imperante. Io sono cresciuto in un periodo in cui Blade Runner, se lo volevi rivedere, dovevi aspettare che veniva ridato in televisione e non lo ridavano mai. Quindi sapere che esisteva Tiziano Sclavi e che quel Tiziano Sclavi scriveva a gente come me, mi trasformavo automaticamente in parte di una tribù, in una sottocultura. Tiziano è stato il primo vero nerd di gran successo, come poi sono stati i vari Whedon e soci negli anni più recenti, e ha capito per primo che esisteva una sorta di tribù che dava estrema serietà a cose che tutti gli altri, gli adulti, trattavano come sciocchezze. E quello è stato il primo passaggio, perché se leggevi Dylan Dog eri amante di quelle cose, e se eri amante di quelle cose facevi tutti parte della stessa tribù. Dunque certezze sul mondo che si sgretolano mentre aumentano le certezze identitarie. Si va verso quella sorta di nichilismo del no future che fu poi protagonista di una certa cultura punk degli anni 70 e che ha visto dei grandissimi interpreti, quelli per esempio che lavorarono a Frigidaire, Andrea Pazienza in primis, che costruivano personaggi che non erano più propositivi, sempre meno davano consigli, ma sempre più riflettevano un mondo che li circondava. Sarebbe ingiusto mettere sotto accusa i fumetti perché rispecchiano un mondo che progressivamente perde i propri valori, la propria coscienza. Sentiamo allora dalla stessa voce di Andrea Pazienza, intervistato da Mollica, il ritratto di un suo famoso personaggio, e poi sentiamo Bifo che ci racconta dell'esperienza di Pazienza e del mondo di questo 1977. Zanardi, pubblicato dalla rivista Frigidaire, è diventato un simbolo, un punto di riferimento preciso. C'è una dominante però, la cattiveria. Zanardi è cattivo. Zanardi è cattivo quanto può essere un'antenna Rai. Ecco. Cioè ripete, ripete, è un ripetitore, riflette ciò che gli sta intorno, che lo circonda e che in qualche modo è suscettibile di commuoverlo. La commozione non sempre è positiva. Zanardi è capace di commozione. Pazienza, ma in fondo per te che cos'è il fumetto? È qualcosa che in questo momento si sta avvicinando molto alla letteratura. E non so se la letteratura significhi qualcosa di più del fumetto nella scala dei valori, ammesso esista. Però sicuramente quanto più si cerca e si riesce di essere evocativi, perché per me poi la cosa fondamentale è evocare. Se leggendo un racconto il cuore poi alla fine riesce a pulsare una volta di più o in meno, e l'adrenalina circola per un attimo in modo più o meno veloce, e le ghiandole se c'erano un liquido al posto di un altro e qualche cosa in chi legge cambia, io ho raggiunto proprio il mio risultato, indipendentemente dalla morale finale, dal fatto quando uno chiuda la storia e dica mi è piaciuta, non mi è piaciuta, mi basta molto meno. Lui come il suo fratello nemico Filippo Scozzari, un altro che mi viene in mente di quegli anni, e Filippo anche ha avuto la capacità di immaginare abissi di disumanità. Mamme, non accoppateci, fa dire ad alcuni suoi piccoli personaggi mostruosi. Ecco, questa capacità di immaginare un'umanità mostruosa a venire. Qualche volta, leggendo le cose di Pazienza, ma ancora di più le cose di Scozzari, devo dire, o di Tamburini, mi veniva da dire: ma come puoi pensare delle cose così? Come puoi? E poi però invece capivo, sentivo che non erano fantasie pazzoidi, erano premonizioni. Ecco, la cultura di quegli anni, la cultura artistica, filosofica, ma anche la cultura della vita quotidiana, la cultura del buco, la cultura del farsi del male, e secondo me è stata essenzialmente una premonizione, una straordinaria premonizione che diventava anche esibizione di un martirio, quasi esibizione del proprio corpo martoriato, come un preavviso all'umanità. E ecco, a me piace ricordarla in questa maniera, la vicenda di quegli anni, come un gruppo di artisti esagitati che fanno dei gesti all'umanità che corre nella loro direzione. L'umanità pensava che noi fossimo minacciosi, aggressivi, o che volessimo minacciare qualcuno. No, noi stavamo semplicemente avvertendoli del fatto che lì c'era un burrone, un abisso sterminato. E l'umanità non è stata ad ascoltarci, ha frainteso o non ha voluto capire. E adesso io temo che nell'abisso ci sia andata a finire. Ma allora, a luce di tutto ciò che è stato detto, cosa rimane di quei fumetti del Pioniere? Sicuramente un'esperienza umana incredibile di impegno sociale e politico, di intelligenza creativa nel ricostruire un mondo che era stato distrutto e avvelenato da 20 anni di fascismo. Rimangono quelle aggregazioni di ragazzi pionieri che in Italia cercavano di costruire un diverso tipo di relazione tra le persone, e poi soprattutto rimane la freschezza, l'eleganza, l'intelligenza, l'ironia incredibile delle filastrocche di Rodari, i Cipollino, gli Atomini, Chiodino. Sono dei fumetti che nemmeno il setaccio del tempo riescono in qualche modo a sminuire. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?